Radio Onda Rossa Alicastelli, al CSOA Ipo di Marino, serata a sostegno di Radio Onda Rossa che ci ha bisogno. Dalle 22 concerti con Lud Rising, Hostiliter, Malclango, Scheletro. Ingresso a sottoscrizione di Radio Onda Rossa. In funzione cucina e birreria. Centro sociale occupato e gestito Ipo, a Via del Giardino Vecchio, Marino. Che ci ha bisogno. No. Come tutto in paradiso, Alicastelli, so è così.